You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento di Radio 24 dedicato alle persone di altre etnie, le persone migranti di solito che arrivano nel nostro paese oppure nel nostro paese sono nate ma hanno radici altrove. Indovina chi viene a cena è la trasmissione che partendo dalla cucina vi porta in un'Italia che sta cambiando. Questa sera abbiamo diversi ospiti per parlare di una realtà in Campania, una realtà importante che è quella dei Rom. La prima nostra ospite è Daniela Iennaco, che è socia fondatrice dell'associazione Compagnia. Adesso ci racconterà che cosa fa. Buonasera. Buonasera. Lei è socia fondatrice, ho detto bene, di Compagnia e anche dell'associazione Chi Rom e Chi No. Dell'associazione Chi Rom e Chi No, sì. Da Chi Rom è nato il progetto La Compagnia, percorsi gastronomici interculturali. Chi Rom e Chi No, dove nasce innanzitutto? Nasce a Scampia nel 2002, quindi sono più di una decina di anni che appunto operiamo sul territorio di Napoli, in particolare in questo quartiere della periferia nord, Scampia, dove da oltre 30 anni c'è un insediamento di una comunità rom di origine slava, tra cui macedoni, serbi, kosovari, che abitano lì insieme ai stessi napoletani del territorio. E questa convivenza com'è? A Scampia è abbastanza tollerata perché appunto sono 30 anni che sono insediati lì e sono arrivati quasi contemporaneamente nel quartiere, perché Scampia è frutto di un'urbanizzazione mai diciamo compiuta, mai terminata, per cui anche in seguito al terremoto i primi insediamenti dei napoletani sono appunto giunti nel quartiere quasi contemporaneamente con i Rom, e il picco poi c'è stato in seguito alla guerra in ex Jugoslavia, quindi negli anni 90, e quindi diciamo è abbastanza tollerata perché poi siamo anche alla seconda generazione di Rom presenti in Italia che frequentano regolarmente le scuole insieme ai bambini napoletani. Quindi diciamo una realtà particolare in un contesto già particolare. Esatto. Lei tra l'altro è un'insegnante, si è dedicata molto a questo progetto, si è inventata un'iniziativa veramente singolare, questa del catering. Cosa fate? Qual è il percorso gastronomico e anche educativo? È un percorso gastronomico interculturale. Noi negli anni, lavorando soprattutto con le mamme e dei bambini con cui facevamo laboratori e tuttora facciamo laboratori di ricercazione partecipata, di teatro, c'è il bellissimo progetto di teatro a Rivuoto che è proprio sugli adolescenti rom e napoletani di tutta la città di Napoli, in particolare anche di Scampia. Noi attraverso quindi queste mamme abbiamo pensato che uno degli strumenti inerenti di lotta alle discriminazioni sociali come strumento di emancipazione proprio anche economica e sociale fosse appunto la cucina. E quindi abbiamo raccontato questa esperienza raccogliendo appunto storie e ricette di queste donne rom e napoletane, e da là sono nate appunto contaminazioni di piatti che ancora sperimentiamo, soprattutto adesso con il catering, che dà lavoro appunto alle persone che fanno parte della compagnia, e da lì sono nate poi delle ricette molto particolari perché riguardano piatti della tradizione sia rom, quindi di origine slava, che è napoletana. Quante persone partecipano, quante donne rom e italiane di Scampia partecipano al suo programma? Il progetto è iniziato nel 2011 con 12 donne, ora ne sono rimaste appunto 8 che sono il fulcro appunto del progetto e anche dell'impresa sociale che è nata in seguito a questo progetto, che ha avuto anche 2 premi sull'innovazione sociale. Proprio come strumento appunto che coniuga la cucina con un risvolto diciamo più pedagogico, più sociale, ma anche di emancipazione appunto economica e opportunità occupazionale in un territorio dove c'è il più alto tasso di disoccupazione e in particolare disoccupazione soprattutto femminile. Senta, ci racconta una ricetta della vostra compagnia. Sì, allora una delle ricette particolari che scuote molto successo perché è un piatto sia dolce che salato è la libanica. Libanica è una parola appunto di origine slava ed è un piatto portato avanti da una donna di origine macedone, un dolce fatto con la pasta filo, quindi una pasta molto sottile, tra l'altro poi le rom sono molto abili nella panificazione, quindi nelle arti bianche, anche perché cucinano con dei forni anche a legna che sono appunto straordinari. Bisogna impastare la farina con acqua tiepida, un pizzico di sale, lasciare riposare per l'impasto. Intanto poi si devono sbucciare delle mele, frullarle con lo zucchero e in un altro contenitore mettere la ricotta con uva sultanina, zucchero, uova e le noci anche tritate. Bisogna poi dividere questa pasta filo in 3 parti, tirarla molto molto sottile, ricoprirla, disponere una teglia precedentemente imburrata e poi fare degli strati, metà con un impasto di mele, mele uva sultanina se la si vuole dolce, e l'altra metà invece salata, quindi con ricotta e le uova che sono appunto precedentemente sbattute. Bisogna poi infornare per circa 50 minuti a 180 gradi e alla fine, quando la libanica è pronta, sfoderarla con lo zucchero a velo. Perché no? Vieni su da me, saremo soli io e te. Ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è? Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso? Come si può fare per avere il catering della vostra associazione Chi Rom e Chi No? Basta contattarci al nostro sito blog che è www.lacompagniacolak.wordpress.com. Come le è venuta in mente questa iniziativa? Come mai la cucina? Abbiamo visto che è uno strumento appunto immediato che riesce a raggiungere tante persone, no? E abbattere anche stereotipi e pregiudizi. Insieme proviamo a cercare di cambiare, di trasformare in positivo delle dinamiche diciamo del quartiere, che sono là dove ci sono forti appunto carenze dal punto di vista proprio lavorativo e soprattutto di pregiudizi e forti discriminazioni, perché sappiamo appunto che la comunità rom poi è la comunità più discriminata appunto d'Europa. Insomma, è partita appunto questa avventura che poi è sfociata in questa impresa sociale, che tra 2 mesi appunto inaugurerà il suo primo ristorante interculturale a Scampia. Non solo ci sarà la cucina, ma ci saranno una serie di laboratori, di residenze per artisti, proprio per portare avanti appunto la nostra, il nostro diciamo modo di essere di della cucina, più la pedagogia e di azioni di riappropriazione anche di spazi pubblici e di un territorio che già è fortemente appunto deprivato. Grazie a Daniela Iennaco, che è la fondatrice dell'associazione Chi Rom e Chi No, che ha ideato proprio questa iniziativa interessante con i Rom di Scampia, della compagnia, che fanno proprio catering e appunto, come ci raccontava, apriranno anche un ristorante. Grazie e buona serata. Grazie, buonasera. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. You've got to laugh a little, cry a little, and let the clouds roll by little. That's the story of. Bentornati in studio da Valentina Furlanetto sulle note della colonna sonora di questo film Indovina chi viene a cena, dalla quale prendiamo il titolo e lo spunto per parlare di cucina e ricette, per raccontare un po' quest'Italia che cambia. Oggi, come avete sentito nella prima parte, parliamo della presenza dei Rom. Lo abbiamo fatto in maniera anche curiosa con questa associazione che si occupa di catering fra italiani di Scampia e italiani Rom che si trovano nella zona. Invece adesso vorrei parlare con due registi che hanno girato un documentario in un'altra zona della Campania, ma ce lo racconteranno loro. Sono Mario Leonbruno e Luca Romano. Buonasera. Buonasera. Hanno presentato al Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli questo documentario film Terra Promessa. Vi farei sentire subito il trailer. Sono morti i miei due nipoti. Non si sa da che cosa. Io c'ho già un figlio invalido. In casa mia non voglio avere un altro figlio o perdere un altro figlio, qualcuno. Sopra la notizia viviamo. Io ho paura per mio figlio, capito? Se è una malattia non puoi fare niente, morire, basta. Vedi come siamo rovinati in questo campo. Come i nostri bambini vanno avanti e noi. Da nessuna parte non si può vivere così. Noi ci troviamo dentro un fuoco. Fuori la discarica 20 metri. Tu nel fumo puoi stare molto di più, ma io nel foro non resisto molto. Questo è. A fianco alla discarica Masseria del Pozzo e nelle immediate vicinanze di Nuovo Ambiente, che è la discarica del pentito collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo, dove appunto sono stati sversati, oltre che rifiuti solidi urbani, anche rifiuti tossici pericolosi. Sicuramente queste discariche sono in assoluto forse quelle più pericolose come potenziale di disastro ambientale e di effetti sulla, non solo sull'ambiente, ma direttamente anche sulla salute dell'uomo. È un paradosso che quello che sono stati sgomberati da un'area fortemente inquinata per essere poi trasferiti in un'area attrezzata dal comune a ridosso di una discarica, in un posto altamente inquinato che si trova al centro dell'area vasta, e costretti a convivere con dei veri e propri geyser di biogas che appestano e avvelenano l'aria. Con biogas qua moriamo tutti, senza pistole, senza armi, senza niente. Così moriamo noi, 2-3 anni qua, tutti morirono, bambini prendono malattie, tutti. In Italia noi siamo messi proprio da parte, come se fosse l'ultima nazione che c'è. Io non lo so, ma io vedo questa gente, o sono umani. Lo so che sono messi umani, ma sono umani come tutti gli altri. Ecco il trailer quindi di Terra Promessa, questo film documentario presentato al Festival dei Diritti Umani del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Luca Romano, si è capito qualcosa dalle voci che abbiamo sentito, ma ci vuole raccontare un po' meglio dove è ambientato questo vostro documentario? All'interno di un campo rom attrezzato e autorizzato dal comune di Giugliano, che però sorge all'interno di una delle di quelle che è ritenuta tra le discariche più pericolose d'Italia, la Resit, Masseria del Pozzo. È una zona in cui sorgono 6 discariche autorizzate, nelle quali però sono finite negli anni ogni sorta di rifiuto e di rifiuto tossico. La Resit è famosa perché qualche anno fa si è scoperto, anche grazie alle dichiarazioni di pentiti, che venivano lì scaricati i fanghi dell'Acna di Cengio senza alcun trattamento di sicurezza, e nel campo vivono, circondati da lamiere, circa 500 rom, la metà circa sono bambini che devono calpestare questo fango che è di un colore inquietante, dal quale fuoriesce questo gas che, come ci ha detto il commissario alle bonifiche del governo De Biasi, è un gas di risulta dei rifiuti tossici, è biogas. Allora, 500 persone, dicevamo, Giuliano, provincia di Napoli, siamo nella terra dei fuochi, esatto, di cui poco meno della metà, insomma, sono bambini che vivono sopra le fumarole di un gas tossico che esce dal terreno e rende pericolosa, oltre che nauseabonda, l'aria, no? Lo dicevamo, è un'area un po' difficile per tutti, è un contesto difficile in cui ci sono delle persone particolari. Mario Leonbruno, nel vostro documentario ci sono tantissime facce di bambini, no? Come può crescere un bambino letteralmente in una discarica a questo punto? Ma la cosa paradossale, diciamo, di questa vicenda è che il campo è stato insediato lì dall'amministrazione comunale a seguito dello sgombero richiesto dalla magistratura da un'altra area, uno sgombero richiesto proprio per motivi ambientali. Ed è, diciamo, abbastanza assurdo che una comunità che è stata sgomberata da un posto ritenuto insalubre per le persone venga poi diciamo costretta a vivere proprio al centro dell'area più inquinata probabilmente di tutto il mezzogiorno d'Italia. In questa comunità ci sono appunto più del 50% di bambini, e tra l'altro per questi bambini non è fornito alcun servizio pubblico. Anche per quanto riguarda la scuola c'è soltanto un progetto messo in campo dal comune con un'associazione che loro chiamano di prescuola, e infatti uno dei nostri ragazzi del nostro film si chiede quando potrà andare nella scuola dove vanno i bambini regolari, perché in questo progetto possono andarci soltanto una, massimo due volte alla settimana per fare, diciamo, questo percorso che dovrebbe prepararli alla scuola normale, alla scuola italiana. Tra l'altro, Giuliano, scusa se ti interrompo, è la terza città più grande della Campania e il comune è stato sciolto per infiltrazioni della camorra, no? C'è stato anche un costo di un allestimento un po' surreale, questa nota. Il campo è costato intorno ai 400.000 euro con cui sono al comune. Sì, finanziato dal comune di Giuliano, già commissariato all'epoca, ma con questi 400.000 euro, diciamo, sono state acquistate queste lamiere che circondano il campo e sono stati installati una decina di container per i servizi igienici. Le persone che abitano lì al campo ci raccontano che sin dai primi giorni era stato sparso un briciolino per far sì che l'acqua della pioggia fosse drenata, ma questo brecciolino, diciamo, non ha mai funzionato. Infatti nelle immagini del nostro documentario si vedono enormi pozzanghere, veri e propri laghi in cui si confonde l'acqua della pioggia con invece questo liquido che permea dalla discarica e che ha un odore nauseabondo. We'll be right back. Luca Romano, quali sono le patologie che possono, che sono state registrate per l'esalazione di questo vapore, per quest'acqua, questo liquame presente nel campo? Noi stiamo premendo perché ci sia un'analisi epidemiologica seria. I medici dell'ASL che hanno avuto modo di visitare i bambini riscontrano dei problemi di respirazione. I terreni che circondano il campo, perché l'analisi sul suolo specifico del campo non è stata fatta, ma nei terreni immediatamente adiacenti, quindi senza soluzione di continuità, è stato posto un divieto assoluto di qualsiasi forma di coltivazione, perché ritenuti estremamente, estremamente inquinati. Quindi è un luogo insalubre, contaminato, cioè stiamo parlando proprio del cuore della terra dei fuochi. Quando si parla di emergenza bonifiche, si sta parlando in particolare dell'area vasta in Campania, che è questa enorme superficie in cui si concentrano 6 discariche in cui è stato sversato di tutto. Questo titolo, Terra Promessa, è un titolo paradossale. Perché l'avete scelto? Ma lo hanno segnalato i Rom, che all'esterno del campo hanno scritto appunto "Cerco Terra Promessa". Loro erano stati sgomberati circa un anno e mezzo fa per le ragioni che descriveva Mario, cioè erano in una zona ritenuta poco salubre, ma nulla a che fare con il luogo che è stato scelto in seguito. Hanno cominciato questo girovagare lungo le campagne del comune, ci sono state delle manifestazioni anche molto violente contro l'insediamento di questi campi abusivi, informali, per chiederne la cacciata. Quindi quando sono stati poi gli è stato comunicato che era stato trovato un terreno per un campo attrezzato e autorizzato, loro effettivamente avevano sperato che fosse una terra promessa. Poi dopo un poco si sono resi conto di quale fosse la sistemazione che gli era stata destinata, e quindi anche ironicamente all'esterno del campo hanno fatto comparire questa scritta "Cerco terra promessa". È una ricerca che loro continuano a fare. Campo del genere è negato il diritto alla salute, prima di tutto, il diritto all'istruzione, il diritto a vivere una vita dignitosa, e per questo, ci tengo a dirlo, noi abbiamo, insieme ad un gruppo di lavoro messo insieme grazie all'aiuto dell'organizzazione del Festival del Cinema dei Diritti Umani, un gruppo di lavoro che ha prodotto un dossier che presenteremo alle commissioni parlamentari per i diritti umani e alla commissione parlamentare antimafia, credo nelle prossime settimane, siamo in attesa di un appuntamento, per portare, diciamo, di fronte alle istituzioni questa situazione che ci sembra davvero inaccettabile. Dove possiamo vederlo? Dove chi ci ascolta potrà vederlo in futuro? C'è una distribuzione? Purtroppo ancora no, questo è un problema che attanaglia tutti gli autori di documentari, i canali distributivi sono a dir poco asfittici, per cui questi lavori circolano normalmente in festival o in piccole rassegne. Noi adesso abbiamo alcune proiezioni già fissate, la prossima sicura è il 21 marzo a Napoli nell'ambito della rassegna Astradoc. Stiamo insomma cercando di farlo girare il più possibile, speriamo di farlo a Roma nelle prossime settimane e poi a Milano. Beh, speriamo di vederlo presto almeno in qualche festival. Grazie agli autori di questo documentario Terra Promessa, Mario Leonbruno e Luca Romano, per essere stati con noi questa sera. Buona serata. Buonasera. Grazie a voi. Buonasera. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo e ricordatevi che a tavola, come nella vita, i gusti cambiano. You've got to give a little, that's the glory of love.